proviamo. Come nasce una canzone? I grandi successi di Marta Cagnola. Ancora un grande autore oggi con noi per scoprire come nascono le canzoni, come sono nate le canzoni più famose della nostra musica leggera. Questa volta tocca un paroliere di enorme successo, tanto che un suo brano è diventato un inno. Cristiano Minellono è nato ad Arona nel 1946. Figlio d'arte, inizia come attore, ma ben presto si mette a scrivere testi di canzoni. Collabora con Adriano Celentano, con Toto Cotugno. Insieme al compositore Dario Farina crea i grandi successi dei Ricchi e Poveri e di Albano e Romina. Si stima che le canzoni a cui ha contribuito siano state vendute in oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, posizionandosi in 56 casi ai primi posti delle hit parade. Ecco Cristiano Minellono, detto anche Popi. Questo nomignolo mi accompagna da quando ero piccolo, e quando sono nato avevo una babysitter inglese. Io appena nato avevo i capelli bagnati e sembravano rossi, e questa ha detto: "Oh, it's wonderful, it's like a puppy", che è il papavero Poppy, no? E da allora mi sono tenuto questo Poppy. Una famiglia un po' particolare. Mio padre era Carlo Minello, un attore di cinema molto, molto famoso negli anni 40, e il bello del cinema italiano, famoso per film come Addio Giovinezza, I Tre Aquilotti, La Zia di Carlo, e mia madre Maria Pia Arcangeli, un'attrice del varietà, cantante e famosissima come cantante di canzoni milanesi, La Fondeghera, La Cagarella del Bifiscale, eccetera, eccetera. Io non so chi è, ne so dir perché quella bimba segua me. Anche l'altro dì nel passar di qui mi sorrise e si turbò. Non di te ciò, io son la sua mamma. Pensateci, guardatela, è proprio lei da te. Era lei, sì, sì, era lei, lo so. Era lei che l'altra sera mi sorrise nel passar. Era lei, sì, sì, non si può sbagliare. Questa cosa è tanto vera che mi sembra di sognare. Io vivevo in via Fiorichiari al 26, in una specie di abbaino in affitto, col gabinetto esterno, e mi ricordo che pagavo 19.000 lire al mese, che comunque erano tante, e dovevo sbarcare il lunario. Facevo l'attore, però ero in un periodo di transizione perché non ero più il bambino prodigio, ero diventato un ometto, 17, 18 anni, 19 anni. Il bambino, quando diventa grande, deve essere bello, allora fa l'attor giovane, quello che si innamora della figlia di così. Io ero brutto, per cui non potevo fare l'attor giovane e non c'era tanto lavoro da fare. Allora, prima ho cominciato a dipingere e vendevo in via Brera i miei quadri, però si mangiava poco. Allora, un giorno mi sono comprato una chitarra, ho comprato dal giornalaio il metodo come imparare la chitarra in una settimana, ho imparato a fare due giri di accordi, sono andato subito al 2 in piazza Formentini e dalle 9 di sera fino alle 3 di mattina cantavo e suonavo la chitarra. Succede che mi chiamano per fare una commedia in televisione, le commedie allora andavano in onda il venerdì sera in diretta. Quando arriviamo al venerdì mattina, Brissoni, che era il regista, dice: "Mio Dio, ma non abbiamo la sigla di testa e la sigla di coda, che musica ci mettiamo?" Era una commedia di questo ragazzo inglese, Cappellone, figlio di un commissario che salvava il padre da un'accusa di omicidio. E io ho detto: "La faccio io la sigla di testa e di coda." E ho detto: "Va bene." Sono andato in una saletta incisione dell'Aeronapoli a fare questa cosa, nella Rai di Napoli, e ho registrato "And I Love Her" dei Beatles e "Blowing in the Wind" di Bob Dylan. Giovanni Danzi e Gramito Ricci mi chiamano, mi fanno un contratto come cantante, io vado in sala incisione, incido una canzone che si chiamava "Adesso è tardi", un pezzo di Bobby Goldsboro tradotto in italiano da Giorgio Calabrese. Torno alla Curci col disco, lo sentiamo tutti bellissimo e io ho detto: "No, faccio schifo, come cantante non mi piace, non canterò mai nella mia vita." E creo un problema alla Curci, perché ormai mi avevano dato un ingaggio, metti, di 700-800 mila lire allora, e io me l'ero già speso tutto, perché dovevo pagare il ristorante, che gli do dei soldi, quell'altro. E mi hanno detto, vabbè, allora resta qua e tu sentirai i dischi stranieri e ci dirai se c'è qualche canzone che si può fare in italiano. Mentre ero lì ho conosciuto il maestro Tony De Vita, una persona meravigliosa, il quale mi ha detto, ho fatto una canzone per Shirley Bassey, non so chi far fare il testo. E io, che non avevo mai scritto niente in vita mia, ho detto, te lo faccio io il testo. Contemporaneamente ho sentito un pezzo straniero che mi piaceva molto, si chiamava Crimson and Clover. Ci ho fatto un testo in italiano, Soli si muore, l'ho fatto incidere a Patrick Sampson, che era della casa discografica delle edizioni Curci, è andato primo in classifica e da lì è partito tutto. Toto Cutugno, Soli, scritta per Adriano Celentano. Allora, Toto Cutugno era questo artista dei Toto e Tati che gravitava nelle edizioni Curci, dove io facevo il responsabile editoriale, il direttore editoriale. Intanto Celentano mi chiama per fare un album, dice, guarda, io sto facendo un album, siccome non lavoro più con Beretta, che povero Luciano si era ammalato, ho deciso che l'album lo faccio metà con te, metà con Malgioglio, e poi da lì il più bravo lo tengo come mio paroliere. Mi fa, ti dà fastidio la competizione? Dico no, perché so che vinco, non c'è problema. Difatti è l'album di Ti Avrò dove ho vinto alla grande. Subito dopo Toto Cutugno mi dà una cassetta con 12 musiche a cui io dovevo fare 12 testi da portare ad Adriano Celentano, che ci aveva commissionato l'album. Toto mi chiama, dice, senti, ci vediamo domani mattina, che è domenica in Curci, perché lunedì abbiamo appuntamento con Adriano, dobbiamo portargli le canzoni. Io non avevo fatto neanche un testo, io li faccio sempre all'ultimo momento. Vado alle edizioni Curci, quando dico a Cutugno che non avevo fatto neanche un testo, disperato, dico, non ti preoccupare, io adesso faccio il primo, mentre tu canti il primo io scrivo il secondo, mentre fai il secondo scrivo il terzo, e così via. Il primo è stato Soli, e così l'abbiamo portato Adriano, sono piaciuti tutti e 12, ha fatto l'LP, ed è stato l'LP che ha rilanciato alla grande Adriano Celentano, che era in un momento, essendosi dedicato molto al cinema, in cui non aveva successo discograficamente. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. In tanti dicono, ma non so se è vero, che l'italiano doveva andare ad Adriano Celentano. È vero? Io e Toto Cutugno collaboriamo, intanto scriviamo delle altre cose, decidiamo di fare un pezzo per Celentano. Io una mattina torno a casa, erano le 7:15 della mattina, ero stato a una festa con Renzo Arbore, la Silvia Nicchiarico, Teo Teocoli, un sacco di amici. Torno a casa, non avevo sonno, accendo la televisione, su Canale 5 c'era un programma fatto con una ex annunciatrice della Rai, non mi ricordo il suo nome adesso, e il programma si chiamava Buongiorno Italia. Dico, ah, che bella, bella frase, Buongiorno Italia. Prendo la penna, scrivo Buongiorno Italia, scrivo tutto il testo dell'italiano. Lo do a Cutugno, ci mette la musica, è perfetta per Adriano, è perfetta, andiamo a Galbiate, la portiamo ad Adriano, e ho detto, no, è troppo logica, troppo banale per me, è troppo scritta su misura, non la inciderò mai. Io allora a quel punto, non sapendo cosa fare, ho detto, Poto, la canti tu e ti produco io il disco. E abbiamo fatto il disco dell'italiano, che è diventato praticamente un inno, ma soprattutto all'estero è stato suonato anche per errore al posto dell'inno di Mameli. È stato suonato a Rabat in Marocco, quando è sceso il presidente Pertini dall'aereo, la banda dell'esercito marocchino ha intonato l'italiano credendo che fosse l'inno nazionale italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Quando è arrivato l'italiano a Sanremo, un testo banale, qualunquista, il solito pizza, amore, sole, tarantelle, tutto. L'italiano è una fotografia tragicamente critica dell'Italia. L'autoradio una mano destra, siamo un paese di ladri. Con sempre più donne, sempre meno suore, un paese senza vocazione. Con troppa America sui manifesti, un paese senza personalità. Con la bandiera in tintoria, un paese di opportunisti. Cioè, è una fotografia critica. Questo la gente l'ha capito, perché non siamo scemi. Tutti noi, quando andavamo a vedere Fantozzi, capivamo che Fantozzi eravamo noi, capito? Però non ho mai preso un premio Tenco, non sono mai stato osannato dai critici, perché sono nazional popolare, capito? Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Però le cose nazional popolari sono quelle che rimangono. Felicità, cioè chiunque dica felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, nient'altro. Ma io, difatti, questo me lo disse Fabrizio De André, fa, tu non ti rendi conto che con Felicità tu hai riportato in auge una parola che ormai era scordata, perché era considerata obsoleta, vecchia, la felicità, così, una roba da Giorgio Consolini, da orchestra di Pippo Barzizza, cioè una cosa vecchia, pinguino innamorato, la felicità, no? E invece è proprio andando a parlare con delle parole semplici, di cose semplici, che entri nella vita della gente, che fondamentalmente a livello sentimentale fa una vita semplice. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità. Cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Felicità. Ah, se te lo dico ti metti a ridere. Ero all'Hilton in Amtucker Park a Monaco di Baviera, dove noi lavoravamo sia con i ricchi e poveri sia con Albano e Romina Power in sala incisione a Monaco, all'Union Studio. E una sera una ragazza che si era presa una cotta di me, un amante del pessimo gusto evidentemente, mi ha regalato un libricino piccolo, cioè grande la metà di un pacchetto di sigarette di Schulz, con scritte tutte le frasi: la felicità è un cucciolo caldo, la felicità è una mattina di sole, la felicità è una carezza. Dico, che bello, pam. 4-5 giorni dopo Dario Farina mi dà una musica che taratata, taradaradadara, era proprio felicità, era perfetta. Ci ho fatto, sono 12 o 14 strofe, ne avrei potute fare 200, sarei andato avanti a vita. Con rima baciata? Sempre la rima. La rima ha due vantaggi. La rima baciata o rima posposta ha due vantaggi. A me permette di scrivere più facilmente, perché mi obbliga in un certo, cioè io dico, mi hai portato un mazzo di carciofi, non c'è la rima con carciofi, per cui è inutile che lo faccio, allora cambio la parola e trovo sempre qualcosa. Difatti le mie canzoni sono abbastanza famose per le allegorie, capito, che ci sono all'interno, e poi perché aiuta la gente a ricordarsi più facilmente la canzone. Quando io sono andato a Napoli la prima volta che Adriano ha ripreso a fare i concerti allo stadio San Paolo di Napoli, Soli era uscito da 2 settimane, non di più, e 50.000 persone hanno cantato Soli dall'inizio alla fine sapendo tutte le parole. Ci sono degli anni e delle edizioni del Festival di Sanremo in cui tu hai un sacco di brani uno contro l'altro. I tuoi artisti tra loro andavano d'accordo o c'era... Beh, sai, mettiamo, quando ho vinto con Albano e Romina, con Ci sarà scritta al telefono 2 ore prima che scadesse il termine per presentare le canzoni di Sanremo. L'ho inventata al telefono con Albano, anche lì non avevo ancora scritto il testo. Luis Miguel, che è arrivato secondo, e Albano e Romina, che sono arrivati primi, non si conoscevano neanche, erano di 2 etichette discografiche diverse. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore ed un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso. sono anche dei testi un po' piccanti. Mi riferisco ad esempio a Comprami di Viola Valentino. È un testo che appare piccante. Difatti le femministe sono scagliate contro di me, un testo maschilista di qui, di là, di su, di giù. No, no, invece quello era il momento delle top model, no? Per cui tutte queste ragazze copertina che apparivano belle, si cominciava a fare quello che fanno oggi, allora senza tette, labbra, sederi, finti e roba del genere, però si cominciava. E io ho scritto una canzone, se sei giù perché non stai bene, se sei triste perché lei ti ha lasciato, comprami, io sono in vendita, ma mi basta solo una carezza, un gesto, una poesia, mi basta per venir via. Cioè, era per spiegare che anche le donne molto belle e molto famose non hanno bisogno che tu abbia una Rolls Royce e tu sia miliardario per piacere. Basta avere un'anima. Era esattamente il contrario di quello che è stato capito. Però c'è un verso un po', cioè, che parla di, diciamo, momenti solitari. Se non sai andare lontano dove non ti porta la mano. E qual è il ragazzino che non si è fatto le seghe da giovane? Guarda che stiamo parlando di canzoni che hanno 35 anni e ancora in tutti i karaoke si canta Soli, si canta Mamma Maria, si canta Felicità, si canta Noi ragazzi di oggi, si canta Comprami di Viola Valentino. Perché sono di un linguaggio che non ha età, come non è un linguaggio di Minellono, ma è un linguaggio popolare di tutti, come quello non è un linguaggio che ha un'età. Quanti ragazzi nelle piazze? No, no, non è un linguaggio che parla di un momento politico, di un momento sociale. È un ragazzo che parla della gente. Testi scritti per voci femminili, cambia qualcosa? Ti devi mettere nei panni di una donna? No, guarda, io ho scritto Il tempo se ne va per Adriano Celentano, che è il dramma di un padre che si rende conto che sua figlia è diventata grande. Io non ho mai avuto una figlia femmina. No, no, mi piace immedesimarmi negli altri, mi piace. E poi, voglio dire, avendo avuto una vita abbastanza turbolenta, conosco bene l'universo femminile. Il sodalizio con Dario Farina, che io considero il miglior compositore italiano, è nato grazie a Freddy Najjar della Baby Record, che ci ha fatto incontrare, e io appena ho sentito la prima canzone di Dario ho detto meravigliosa. Poi anche lì cose da morire da ridere, quando in Germania abbiamo fatto Come vorrei, Freddy Najjar l'ha sentito, fa: è una schifezza tremenda, però non abbiamo tempo per sostituirlo, metteremo anche questo nell'album. Uno che ti scrive Come vorrei e nello stesso tempo ti scrive Mamma Maria, cioè vuol dire che è poliedrico totalmente, capito? Che si sa esprimere non solo in un tio, è un po' come i Beatles che fanno obladì, oblada e something, cioè due mondi totalmente, o Yesterday, due mondi totalmente diversi. Lui era questo, lui è stato grandissimo. E poi non dimentichiamoci che Sarà perché ti amo, Mamma Maria, Come vorrei, Volevo danse, lui era capace di farti un successo ogni 15 giorni, pazzesco. Rosse come mele, un filtro contro la gelosia e una ricetta. Che ricordo hai di quegli anni lì, di quei primi anni 80 in cui queste canzoni davvero erano in tutto il mondo? È stato un periodo molto bello che però io ho sempre vissuto in maniera guascona, come sono io, cioè io intanto andavo a fare le mie corse in macchina, me ne andavo fuori con la mia barca, le mie cose, cioè non ho mai preso seriamente il lavoro di paroliere, se no sarei andato in Francia alla April Music a spingere il mio nome, la mia cosa, sarei andato qui, se no io non andavo, andavo solo se mi chiamavano, non sono mai andato a un artista e dico ma perché non incidi una mia canzone, mai, se mi chiamavano andavo, se no stavo a casa mia bello tranquillo. Avete ascoltato Come nasce una canzone, i grandi successi di Marta Cagnola. Produzione audio Paolo Corleoni. Realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italia. Tutte le puntate su radio24.it.